con le bacchette, retro ristorante cinese, DPC 777. Bevo e non ho sete, sciroppo e non ho la tosse. Macchie di sangue sulle forze rosse, non si rivede. A casa con 2 chili, Golf GT, no leasing. Fottere la gang è come fare a pugni con Grizzly. Questi rapper sono rapper davvero, quello soltanto. Tengo un piede dentro lo studio e l'altro saldo all'asfalto. Se non parli di soldi, allora non parli di un cazzo. E non parlo con chi apre bocca solo per darle fiato. E non sono bravo a inventare, parlo di quel che faccio. Tipo 5.000 li spendo, tanto poi li rifaccio. Tasche gonfie, come se ho messo i miei jeans all'ingrasso. E la tua ragazza ti accanna quando uscirà il mio album. Dark Gang, 777, scottiamo, siamo caldi. E puoi metterti in mezzo, ma non potrai fermarci. Parex bimbo trasforma pezzi in piccioni. Sulla vetta del cielo apriamo ali come colombe da rione. Non mi sposto, non può spostarmi nessuno. 777 alla gang, richiami morti dalle tombe. Mi fanno dove sei stato, dal Parex ci sei mancato. Sono stato giù all'inferno, sono tornato pieno di ferro. Levati dal cazzo come se stessi sparando a caso. Sto giù con la gang, postati come un presepe. Mare di soldi, provo a levarmi il salvagente. Doppia G, Gucci nero su nero non si vede, sto mettendo soldi al cavo. Tu spendi soldi sull'app store, chiamo Violo, chiama Tony, giuro su Dio fa un disastro. Golf GT nero pago come Nino Brown. Non slicciare Mickey, ma giro coi cani Charlie Brown. R.O.M.A. Gore Tex Air Force One. E quando finisce la droga che iniziamo a fare rap.